Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, una settimana diciamo tutto tranne che ferragostana, vuoi per il tempo ma soprattutto per le sberle, i tonfi di borsa e i tentativi di recupero di questi due giorni, le tensioni sui paesi. Non c'è solo l'Italia, avremo una pagina quasi tutta italiana oggi vista la presentazione della manovra a regioni e comuni che l'hanno giudicata negativamente ad essere buoni, e poi il Consiglio dei Ministri di questa sera alle 19, ma è anche la Francia la vera novità della settimana. La Francia continua a essere sotto pressione, soprattutto nel rischio misurato da quanto alto è il premio per assicurarsi contro un fallimento del paese, ossia i credit default swaps continuano a salire, i CDS sulla Francia, e obiettivamente mentre il gruppo bancario francese Société Générale ha deciso che farà una causa contro, si immagina, ignoti per le voci di un possibile declassamento che hanno fatto crollare il titolo, lo ricorderete, due giorni fa, fino al meno 20% il titolo, per voci di un poi mai verificatesi di un possibile declassamento sul debito e problemi di liquidità. Dicevo, nel frattempo i credit default swaps sulla Francia sono saliti a quota 173 punti, di 100 punti più bassi dei nostri, anche un po' di più, però, però alti, a record per la Francia, e anche su Société Générale sono a quota 346. Ha frenato in Francia l'economia nel secondo trimestre, il PIL è fermo nel secondo trimestre dell'anno, quindi rispetto a un più 1,6% di un anno prima, e gli analisti si attendevano un rialzo dello 0,3%. Crolla invece in maniera drammatica il PIL greco, nel secondo trimestre dell'anno ha fatto meno 7% rispetto al secondo trimestre del 2010, quando già eravamo in piena crisi greca l'anno scorso, lo ricorderete. E ancora invece ci consoliamo, per modo di dire, con l'India, dove la produzione industriale ha fatto un balzo nel mese di giugno, più 8,8%, quindi due mondi a due velocità, due mondi diversi con parti invertite, crescono gli indiani, i cinesi, frenano e languono francesi, italiani e non solo. 349-238-6666 per i vostri sms, commenteremo la reazione delle regioni alla manovra presentata e quindi tagli soprattutto alle regioni e agli enti locali, che di fatto poi dovranno reperire queste risorse che non vengono trasferite da Roma con tasse regionali o comunali. Formigoni lo ha smentito, ma insomma, o veramente ci sono sacchi di risparmio enormi, oppure qui si andrà verso un aumento della pressione fiscale su base locale. Non c'è terzo non dato, non c'è una terza possibilità, o è così o nell'altro modo. E ancora, per quello che riguarda la tassa e il contributo di solidarietà, ne parleremo, perché da quello che si capisce dovrebbe riguardare i redditi sopra i 90.000 euro all'anno lordi. Faccio notare che quasi il 90% degli italiani che dichiarano più di 90.000 euro lordi l'anno sono o pensionati o lavoratori dipendenti, e quindi questo non va a toccare, lo dico senza polemica, non va a toccare l'evasione fiscale, perché sappiamo tutti che immaginare che il 90% di chi guadagna 90.000 euro di l'anno siano dipendenti e pensionati, poi magari qualche cifra la leggiamo. E poi il menù della Camera, ieri abbiamo letto il menù a pranzo per il Senato, oggi abbiamo anche il menù a cena per la Camera, così mettiamo assieme il pranzo con la cena, che è una cosa che ogni italiano vorrebbe fare e che fanno egregiamente i deputati. Non è populismo, non è grillismo come scrivono alcuni. Vi darò anche un calcolo di quanti contributi vengono versati per il menù dei parlamentari dagli italiani ogni anno, qualche decina di milioni di euro, per carità, non cambierebbe i conti pubblici, ma magari, vogliamo essere demagogici, l'ospedale per bambini e persone con problemi deambulatori neurologici di Santa Lucia a Roma, più altri 10 ospedali, perché con queste cifre se ne fanno altri 10, magari i deputati, i senatori potrebbero anche pagarsi il loro cibo oppure mangiarsi un panino. Adesso mi fermo. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve. I titoli in borsa più 8,90% fondiere. Alcuni di voi chiedono che io metta il gallo. No, nel senso che dopo le sbelle che abbiamo preso le prime tre giorni della settimana, dopo quello che è successo la settimana scorsa, non vorrei che il gallo fosse improvvido. Lasciamo in vacanza il gufo, il gallo, le campane, tutto l'armamentario. Commentiamo: più 3,60% dicevo Milano, più 8,94% Fondiaria, più 8% Mediobanca, più 7,80% Mediolanum, più 7,40% Banca Popolare, più 7% Azimut, più 6,40% di Assorin, più 6,30% Generali, più 6% Popolare di Milano, più 5,60% UbiBanca, più 5,40% Mediaset, più 5,20% Fiat, più 4,90% Monte dei Paschi, più 4,70% Unicredit, più 4,50% Impregilo, più 4,40% Fiat, Camion e Trattori, quindi Industrial, più 4,40% anche Exor, più 4,20% Prismian. Chiudiamo con chi guadagna più del 3%, ossia Eni, il 4%, Atlantia, più 3,90%, Ansaldo STS, più 3,70%, Saipem, più 3,60%, Autogrill, più 3,20%, Enel, più 3%. Vedo che continuate a chiedere il gallo. Allora, gallo sia, poi se però porta sfiga la prossima settimana, non voglio responsabilità. Il conduttore declina ogni responsabilità sull'effetto, diciamo in qualche modo scaramantico, del gallo la prossima settimana, e manca ancora un quarto d'ora alla chiusura. Comunque, chi guadagna meno o perde? Perde solo Terna, che è uno dei titoli che meglio si è comportata durante gli ultimi cali e tonfi di borsa, assieme a Luxottica, assieme a Tod's. Terna meno 0,35%, Luxottica più 0,90% e Snam Rete Gas più 1,27%. Come va lo spread tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, ossia quant'è la differenza, quanto costa in più l'Italia trovare finanziatori per il suo debito? Siamo a 280 punti, il rendimento è al 5%, siamo vicinissimi ai bonus spagnoli, ai BTP spagnoli, sempre lì, è un livello sotto i 300 punti, quindi meglio così di questi periodi. Sarebbe stato definito un livello molto alto a giugno, ma con quello che è successo nel frattempo è un livello che tutto sommato possiamo accettare. Ancora il debito. Qua adesso facciamo un ragionamento. Allora, la Banca d'Italia ha oggi diffuso la stima sul debito, è a 1.901 miliardi di euro il debito italiano, supera per la prima volta i 1.901 miliardi. Allora, il debito, essendo un valore nominale, prima o poi li avrebbe superati, c'è l'inflazione, è chiaro che 1.900 miliardi da adesso non sono 1.900 miliardi di 10 anni fa, questo è quasi tautologico. Con che velocità li supera, questo invece dipende da quanto debito accumuliamo. Allora, la cosa impressionante è che oltre ai 1.901 miliardi di debito, e con la buona notizia che sono aumentate le entrate fiscali nei primi 6 mesi a 183 miliardi, la Banca d'Italia ha fatto un calcolo e ha calcolato con quanto debito nasce ogni neonato italiano. E ogni neonato italiano nasce, nel momento in cui proprio viene partorito, ha già sulla gobba, o meglio sulla schienetta, sulla piccola schiena, 31.700 euro di debito per ogni neonato appena nato. E a noi è venuta in mente una canzone. Era meglio morire da piccoli, suicidarsi col troppo turaccioli, soffocarsi con tanti batuffoli, che vedere sto schifo da grande. soffocarsi col pappaturaccio, di soffocarsi con tanti batuffoli, che vedere sto schifo da grande. Sì, Paolo Rossi, era meglio morire da piccoli. 31.700 euro, stiamo scherzando chiaramente, però insomma. Era meglio morire da piccoli. Va bene, andiamo alle cose serie. Ammesso che non sia serio ragionare su ogni neonato che, come nasce, si becca assieme alle pappucce anche 31.700 euro di debito senza ancora aver fatto nulla. Per una famiglia salgono a 90.000 euro di debito per ogni famiglia. Questo è il debito pubblico spalmato su tutti noi. Primo tema della puntata, incontro tra il governo e le regioni, i comuni, le province per illustrare la manovra, incontro che è stato quantomeno gelido nel finale. Allora, alle 19 Consiglio dei Ministri per adottare il decreto anticrisi, l'incontro del governo con gli enti locali, 20 miliardi la manovra aggiuntiva, oltre quella già anticipata a giugno, ma che praticamente ci siamo bruciati in un mese e mezzo, 20 miliardi e per il 2013 25 miliardi. L'addizionale IRPEF, la misura di solidarietà, del 5% per la parte di reddito che supera i 90.000 euro e del 10% oltre i 150.000. E poi tagli ai ministeri, 6 miliardi nel 2012, 2 miliardi e mezzo nel 2013. In questo modo Tremonti si attende di arrivare a un pareggio di bilancio, cioè deficit a zero nel 2013. E però non basta, serve anche un taglio ai trasferimenti a regioni e enti locali. 6 miliardi in meno nel 2012 e 3 miliardi e mezzo nel 2013, dopo che già gli enti locali, in questo ha ragione Formigoni, si erano caricati buona parte della manovra annunciata a giugno e buona parte della manovra del 2010. Le reazioni dei presidenti delle regioni, facciamo sentire subito Formigoni che sul federalismo è netto, dice che il federalismo non esiste più, ma parla anche dei nuovi tagli e di quanto peseranno sulle regioni. Le regioni hanno detto con chiarezza che già la manovra di luglio affossava il federalismo fiscale, nel senso che scomparendo le materie, i trasferimenti su cui può essere fatta la fiscalizzazione, scompare la fiscalizzazione stessa e il federalismo. È chiaro che se quei tagli del 2010 e del luglio 2011 aggiungiamo ulteriori tagli, anche dal nostro punto di vista delle regioni, il federalismo fiscale è ormai insussistente, inconsistente, non esiste più. Quindi il nostro giudizio è molto netto. Le regioni una volta di più incontrano il governo con l'intenzione, come sempre, di fare per intero la propria parte in un momento complicato della vita dell'intero Paese. Crediamo però che sia parte della responsabilità che ci compete lavorare perché i provvedimenti siano equi ed equamente distribuiti tra tutti i comparti dello Stato. Ho dovuto ricordare che questa è la terza manovra nel corso di 12 mesi. Già la manovra del 2010 pesava in maniera abnorme sulle regioni, la manovra del luglio 2011 moltiplicava questo effetto distorsivo a carico di regioni, province e comuni. In questa misura i tagli previsti nella manovra del luglio 2011 pesano per il 50% sulle regioni, quando le regioni pesano nella spesa totale soltanto per il 16%. Quindi è evidente che c'è un effetto distorsivo e sproporzionato pesantissimo a svantaggio delle regioni, poi province e comuni parleranno per la loro parte perché anche loro subiscono e hanno subito in queste manovre qualche cosa di pesante, ma c'è una sproporzione netta che svantaggia le regioni, non tanto intese come gli amministratori delle regioni, ma svantaggia le politiche che sono di responsabilità delle regioni. È innegabile, perché è un dato di fatto quello che dice Formigoni. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. La manovra 2010, la manovra 2011, quella annunciata, anticipata, che sembrava dover risolvere tutti i problemi e poi non è servita praticamente a niente, perché spostava tutta Italia 2013-2014, erano già in parte, o in buona parte, incentrate sulle regioni. Che però Formigoni non lo si può criticare quando dice il 50% della manovra è su di noi, ma noi contiamo sulla spesa pubblica dello Stato il 16%, cioè andiamo a pagare tre volte quello che è il nostro peso. Sì, per di più c'è da aggiungere la parte comuni, che è ancora peggio, nel senso che i comuni sono un comparto con saldo positivo. Da un paio d'anni a questa parte danno al bilancio pubblico più di quello che spendono, e anche in questa manovra, secondo le scansioni che stanno emergendo, pur pesando molto meno delle regioni, hanno un taglio equivalente a quello delle regioni. C'è un problema di efficacia. Allora, dal punto di vista del Ministero dell'Economia, del Governo centrale, questa sproporzione nei tagli denunciata da Formigoni non è per, diciamo così, cattiveria o antipatia nei confronti dei livelli territoriali, ma è proprio per un problema di efficacia. Cioè, tu tagliando alle regioni e agli enti locali fai un taglio alla fonte, e quindi hai blindato il risultato in termini di consolidato del bilancio pubblico all'inizio. Cioè, io ti do 6 miliardi in meno, quei 6 miliardi ci sono, non c'è il minimo dubbio. Se invece tu chiedi ai ministeri, alla di risparmiare, ecco, tu puoi sperare che ci sia una riduzione, speranza che in molti degli ultimi anni è andata delusa. E come dire, questo è un po' la stessa differenza che si ha quando tu tassi, e ne parleremo, un lavoratore dipendente che ha il prelievo alla fonte, quindi tu sei certo di quello che vai a recuperare, invece quando aspetti dal contribuente indicazioni sul reddito che possono essere più o meno fedeli, quindi, al vero. Cioè, diciamo, dal punto di vista del ministro e del governo, tagliare 6 miliardi sono tagli certi, attendersi 6 miliardi di risparmio è una speranza. È una speranza. I tagli sono certi, i risparmi sono aleatori, potremmo metterla così, molto aleatori così. In questo paese, quando si parla di pubblica amministrazione, anche qui attenzione, lo dico a chi scrive: la pubblica amministrazione significa gli infermieri, i poliziotti, gli insegnanti, chi garantisce il sostegno, i vigili del fuoco. Questa cosa qui non può essere confusa con le consulenze delle regioni, delle province. Andiamo a fare un po' una puntata quando i mercati ci faranno respirare su quanto paga la regione Lazio e altre regioni di consulenze, di dipendenti, di personale. Quelli sono gli sprechi, ma non è che tutto il pubblico impiego sia fatto da sprechi. Parliamo dei privati che usano consulenze del pubblico impiego per arricchirsi, non sempre del dipendente in maniera un po' demagogica. Comunque, oggi mi devo star calmo, perché sennò... Prego Gianni. Parliamo molto direttamente di chi prenderà la metropolitana o il pullman a Milano o a Roma da settembre pagandolo 1,50 euro, e lo pagava 1 euro prima. Questo qui non è per cattiveria, questo aumento, diciamo così, anche qui non è per cattiveria o altre ragioni, ma perché c'è stato un drastico taglio, e alcuni aumenti sulle linee interurbane sono già scattati. C'è stato un drastico taglio ai fondi per il trasporto pubblico locale, lo ricordava anche Formigoni nella conferenza stampa di oggi, che quindi c'è un forte spostamento nel finanziamento dei servizi. Oh, adesso qui ci arriviamo, perché qua a me la storia, lo dico oggi, sarà che è venerdì, sarà che la settimana è intensa, sarà che era agosto, però qua ci sono stati dei mantra, abbiamo tutta la lista dei file, quindi magari faremo anche una puntata con le voci. La crisi non ci tocca, la crisi non è arrivata, la crisi non c'è, la crisi l'abbiamo già superata, che è un miracolo dell'economia, superi una crisi che non è mai arrivata. L'Italia è messa meglio degli altri, noi abbiamo risparmi privati, alla fine della fiera siamo messi peggio degli altri, come gli altri peggio, nella parte basta la classifica, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani. Non è un programma di politica questo, però la domanda è: Siccome pubblico impiego vuol dire tutte le cose che ho elencato, ma anche insegnanti di sostegno, maestre, asili, contributi per le mense e balle varie, la carta igienica non più perché tanto la portano i genitori, dove li troveranno le regioni e i comuni questi 6 miliardi e mezzo di mancati trasferimenti nel 2012 e 3 e mezzo nel 2013? Allora, lo scambio è molto trasparente ed è stato noi vi tagliamo i fondi, ma in cambio anticipiamo la possibilità di alzare le aliquote del fisco locale, addizionale comunale all'IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF, e a quanto pare, stiamo parlando di ipotesi sempre più concrete, ma come dire, la certezza arriverà tra qualche ora, anche l'anticipo della cosiddetta IMU, cioè l'imposta municipale unica che viene a sostituire l'ICI attuale. Il succo di tutta questa vicenda è appunto un grande spostamento nel finanziamento dei servizi locali, che non vengono più finanziati dal centro con la fiscalità generale, ma vengono finanziati direttamente dai cittadini con le aliquote locali e con le tariffe dei servizi locali, che già in questi anni sono molto molto aumentate. Sostanzialmente lo Stato esce progressivamente da tutto un sistema di welfare locale, che è tante cose quelle che ricordavi tu adesso, e chiama i cittadini a raccolta. No, attenzione, in questo programma abbiamo sempre sostenuto l'importanza anche dell'efficacia del federalismo fiscale, del federalismo tout court. Il punto però, Gianni, è un altro. Va bene che lo Stato centrale esca da alcuni servizi e deleghi questi servizi alle regioni e ai comuni. Il problema è che o tu mi dai meno pressione complessiva, cioè l'IRPEF nazionale cala e allora il comune mi mette l'IRPEF comunale, la regione mi mette l'addizionale IRPEF regionale e tutto sommato la somma fa 100. Ma se tu mantieni l'IRPEF invariata su base nazionale, levi i soldi ai comuni e alle regioni, siccome io non sarò bravo in matematica, ma due concetti li ho imparati in questi anni, di riffa o di raffa aumenta la pressione fiscale locale, oppure sono malizioso? No, il problema è esattamente quello, e ricordo anche che nei decreti sul federalismo fiscale, quello sulle regioni, quello sulle province, quello sui comuni, eccetera eccetera, c'è sempre una frasetta che dice che ritocco, l'aumento, la libertà fiscale degli enti territoriali deve avvenire a invarianza della pressione fiscale generale. Questa frasetta, che ricorre in tutti i decreti sul fisco federale, sembrava, diciamo, un auspicio già tempo fa e adesso è qualcosa di meno. Quindi il timore, io mi auguro che per ora è una certezza, ma mi auguro che torni a essere un timore, è che il federalismo fiscale non porti più tasse, cioè la somma deve fare zero tra quello che tu chiedi in meno a me come IRPEF nazionale e quello che chiedi in più a me come addizionale IRPEF locale. Così non è il giudizio, devo dire lapidario, di Roberto Formigoni, che ripeto che non è esattamente un governatore che sta all'opposizione, sulla manovra. Il problema è che riteniamo che una manovra che picchi ancora una volta sul comparto regioni ed enti locali abbia effetti depressivi ed abbia effetti antisociali, perché va a colpire capitoli di spesa essenziali per la qualità di vita delle persone, soprattutto le meno abbienti. La sanità non è toccata, ma comunque è stata toccata precedentemente. Vengono toccati i servizi sociali, vengono toccati i trasporti, viene toccato quel minimo aiuto che possiamo ancora dare alle imprese. Allora la nostra proposta radicale è di pensare ad altre forme per reperire la somma necessaria chiestaci dalla BCE, eccetera, eccetera. E volutamente, stiamo facendo sentire voci di governatore, sentirete anche il sindaco Alemanno, che non fanno parte dell'opposizione, proprio per sgombrare il campo dal dubbio che vi sia anche una, così, un gioco delle parti in cui chi è eletto nel PD o nell'Italia dei Valori, nell'UDC, vuole per forza andare contro il governo. Alemanno sui tagli parla in questo caso a nome dell'ANCI, oltre che a nome di se stesso, quindi dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Siamo, per quanto riguarda questi tagli, in particolare quelli dei comuni, in un ambito di pura spesa sociale. Questi sono tagli che si scaricano, che si traducono di fatto in larghissima parte in spesa sociale. Noi siamo disponibili a qualsiasi passaggio a raggi X dei nostri bilanci rispetto a quelli che sono i costi standard, rispetto a quelli che sono la realtà del personale. Bene, siamo di fronte a spese tutte incomprimibili, salvo appunto le spese sociali, quindi siamo di fronte a un taglio che non è taglio alla politica, non è taglio alle istituzioni, è taglio alla spesa sociale. Questo deve essere sottolineato con grandissima forza. Quindi non si stanno tagliando, io vedo molti messaggi che dicono ma insomma le regioni i margini ce li hanno, tante sagre, tante feste, siamo d'accordo, anche le regioni hanno sprechi, anche le regioni hanno e si può ridurre. Devo però dire, ma non per sposare i governatori o i sindaci già ne trovati, che obiettivamente già nel 2010 i tagli erano stati consistenti anche nella manovra di giugno 2011. Questo spostamento di risorse nel finanziamento dei servizi locali è uno spostamento avvenuto in tre capitoli, cioè le ultime tre manovre sostanzialmente, che hanno tutte quante lo stesso impianto di massima e quindi lo stesso significato finale. È vero che ci sono gli sprechi, ce ne sono tantissimi tuttora, in particolar modo nelle regioni e nella politica regionale, questi potentati locali che hanno riprodotto in peggio le dinamiche parlamentari. Diciamo anche però che questi sprechi, che sono scandalosi, che vanno combattuti, che sono tremendi, non hanno la stessa dimensione della spesa sociale dei tagli. Sì, voglio dire, saresti stato più credibile se avessi ridotto del peso equivalente i trasferimenti alle regioni. Voglio dire, le regioni pesano per il 16% sulla spesa pubblica, potevi tagliare del 16%. Aggiungiamo poi anche una cosa, che gli sprechi sono nelle regioni ma mica in tutte nella stessa misura. E anche i comuni, ci sono comuni virtuosi. Da anni si parla di meritocrazia nelle regioni e nei comuni, ma ovviamente anche questo taglio è tutto fuorché meritocrazia. È un taglio trasversale e devo dire che la situazione si complica, perché poi ne parleremo anche con Guido Gentili. Alemanno ha detto: ho incontrato Berlusconi, il premier è perplesso, la partita non è chiusa, le province hanno bocciato la manovra, iniqua e depressiva. Il PD dice che in tempi stretti il PD presenterà la sua, attendiamo con ansia. Un'altra, no, perché oggi guarda, oggi sono bipartisan. Un altro elemento invece, la tassa di solidarietà. Allora, sopra i redditi da 90.000 euro l'anno il 5%, sopra i 110.000 euro l'anno il 10%, i 100.000, 150.000 scusami, euro l'anno il 10%. A mio avviso non c'è da scandalizzarsi, abbiamo sempre detto che o con la patrimoniale o con l'IRPEF bisognava chiedere un contributo ai redditi più alti. C'è un piccolo problema: quanti sono gli italiani, cioè come tra lavoratori autonomi, pensionati e dipendenti, che guadagnano più di 90.000 euro lordi l'anno e più di 150.000? Allora, a spanne, diciamo. No, no, i pensionati probabilmente. Allora, parliamo di ipotesi, fammi dire solo due cose molto rapide. Questa che hai detto tu è l'ipotesi più accreditata, perché è già il meccanismo previsto per i pensionati e per i dipendenti statali. Quindi sarebbe un'estensione ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi. Questo è una bella frase. Diciamo che però i lavoratori autonomi, secondo le statistiche fiscali del Dipartimento delle Finanze, sono una sparuta minoranza all'interno delle fasce di reddito superiori a 90.000 euro, rappresentano circa il 12-13%, il resto sono tutti lavoratori dipendenti. Quindi, come dire, questo tipo di contributo sarebbe sostanzialmente un contributo a carico quasi esclusivamente dei lavoratori dipendenti, al punto che tra le ipotesi che si stanno fronteggiando oggi pomeriggio, questa rimane comunque largamente più probabile, c'è anche quella di abbassare un po' la soglia per pescare un po' di più di autonomi. Sì, perché il problema dell'evasione, ne abbiamo parlato in questi giorni, la campagna pubblicitaria sull'evasione, oltre all'effetto dannoso che ha sui conti pubblici, rende anche impossibile qualunque politica seria di agevolazioni fiscali, perché nel momento in cui tu scopri che in Italia diciamo sono l'1%, correggimi Gianni se sbaglio, quelli che dichiarano più di 100.000 euro l'ordine erano l'1,4%, e di questo 1,4% l'80% sono pensionati e dipendenti. Ora, credere che ci siano solo 20-30.000 autonomi in Italia che guadagnano più di 100.000 euro l'anno, con 94.000 barche sopra i 10 metri, 500.000 barche sotto i 10 metri, 1 milione di auto sopra i 2.500 cc di cilindrata, no? È dura. Ristoratori, reddito medio, 13.500 euro lordi dichiarati, commercianti, 12.000 euro lordi dichiarati, pensionati, 14.000 euro lordi dichiarati. Allora, ogni ristoratore guadagna molto meno di un pensionato. Gioiellieri, 19.000 euro lordi dichiarati all'anno. Grazie, Gianni Trovati. Grazie a voi. Meteo, pubblicità, poi il menù della Camera, perché mi sembra importantissimo, visto che i sacrifici sono chiesti a tutti, e vediamo quanto ci costa il menù far mangiare i parlamentari, far mangiare legalmente i parlamentari ogni anno, e dopo il meteo e la pubblicità. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, in una giornata in cui sicuramente la nota più positiva è la borsa, più 4% anche oggi la chiusura nel finale, quindi il recupero c'è tutto rispetto al crollo di mercoledì. Mediobanca più 10%, Banco Popolare più 8,70%, Fondiaria Assai più 8,60%, Mediolanum più 8,20%, Popolare di Milano più 7,44%. Questi rialzi principali li commenteremo come sempre tra poco. Ci avete chiesto quanto sarà l'ammontare complessivo della tassa di solidarietà, quella per i redditi sopra i 90.000 euro, il 5% e il 10% sopra i 150.000 euro. Stando alle stime del Sole 24 Ore, tra il miliardo e il miliardo e mezzo. Okay, il problema vero è che è tutta sul lavoratore dipendente. Non c'è nessun problema, lo dico chi scrive, che uno che guadagna 90 o 100.000 euro paghi il 10% in più. Il problema è che non possono essere solo i lavoratori dipendenti, devono essere anche i lavoratori autonomi. Va bene su questo. E allora, quando poi vedi le cifre, sballa tutto. Visto che parliamo di solidarietà, un po' di solidarietà potrebbe arrivare anche dal Parlamento. Ieri vi abbiamo letto quanto costa pranzare alla Camera, al Senato, scusatemi. Oggi è la volta della cena, quindi mettiamo assieme il pranzo con la cena, l'obiettivo di ogni italiano e quindi giustamente l'obiettivo anche di ogni parlamentare. Il menù della cena alla Camera, ieri era la Vienne Rose, mi date qualcosa più romantico, non so, Chopin, perfetto. Antipasto del buffet, 2 euro. Risotto gamberi e pachino, 5,30 euro. Sedanini al pesto, 3,30 euro. Pasta, patate e zucchine, 2 euro. Secondo i piatti, pesce del giorno, secondo disponibilità del mercato, quindi noi surgelati, 4,60 euro. Insalata di pollo, 4 euro. Carré di agnello al forno, 5,30 euro. Contorni di stagione, 1,30 euro. Frutta di stagione 1 euro, formaggi latticini 1,80 euro, scelta di dolci 2 euro. Leggermente più caro di quello della Camera. Ora il problema è, dice, ma cosa c'entra il populismo sul menù, quello del Senato, però è la cena questa, Cosa c'entra, è populistico, sembri Grillo. No, allora i parlamentari sono 945, su questo non ci piove. Un pasto costa 10 euro, il valore di mercato stimato oggi sui giornali da vari chef è quanto meno di 50 euro, che insomma è quello che ogni italiano paga per mangiare in un ristorante come questo, antipasto, primo, secondo. La differenza sono 40 euro e fin qua non ci piove. Chi la paga? La paghiamo noi. Ora, se un parlamentare mangia due volte al giorno, e giudicando così, insomma, si può anche dire che due volte al giorno mangiano, per 20 giorni al mese, quindi fatti salvi molti giorni, sono quasi 20 milioni di euro di soldi pubblici. E io pago! E io pago! Interferenze radio. 20 milioni di euro di soldi pubblici non salva il bilancio dello Stato, ma sarebbe un segnale. Guido Gentile del Sole 24 Ore, editorialista, buonasera. Buonasera a voi. È due giorni che ti tocca il menù, spero che... Sì. No, però sì, sai, insomma... Sì, appunto, era interessante notare che mi pare appunto quello della Camera ha un presente di un listino prezzi leggermente superiore, quindi sì, è curiosa questa cosa. Però è a cena, mentre quello di ieri era a pranzo al Senato. Comunque io penso che ce la si possa fare con un risotto gamberi e pachino a 5,30 euro. Sono convinto che... Poi io non ho capito perché adesso, a parte le battute, si debbano dare integrativi per 20 milioni di euro ai circa a deputati e senatori, quando sappiamo che quello che costa un pasto a ogni contribuente per un asilo è 5 euro. All'asilo io non ho mai visto il risotto di Pachino e Gambri, ma mi sarà sfuggito. Se no mi trasferivo lì. Allora, il primo commento su questa manovra, diciamo, con Gianni Trovati, furibondi gli enti locali, i governatori, comuni e province, perché dicono va bene i tagli, però è la terza manovra in 12 mesi che si fa al 50% sulle regioni, sugli enti locali, quando noi come regioni pesiamo per un 16%. Sì, beh, questo, diciamo, c'era da metterlo in conto. Diciamo, non la rivolta degli enti locali, ma comunque, diciamo, delle critiche molto molto pesanti. Si sapeva che la manovra, anche, diciamo, della prima versione, quella più soft del famoso decreto da 48 miliardi varato all'inizio di luglio, prevedeva anche lì un aggiustamento, diciamo, anche se più, diciamo, più in là nel tempo, ma prevedeva dei tagli sostanziosi per gli enti locali. Quindi su questo c'era da aspettarselo. È evidente che quando siamo arrivati al punto in cui siamo, e quindi in un'emergenza vera, si taglia dappertutto, e quindi anche agli enti locali. Poi diverso è il caso se vogliamo ragionare su che cosa significa questo rispetto al progetto federalista fiscale in campo. C'è chi dice è morto, è abortito qui. Ho letto che Bossi ha dato qualche assicurazione dicendo no, non è vero, eccetera, però effettivamente bisognerà poi adesso vedere, leggere le carte, però insomma il colpo mi sembra duro. Il colpo è duro perché io non sto da nessuna parte, ci sono sprechi anche delle regioni, ne abbiamo parlato molte volte, però è vero che è la terza manovra che in grande parte si scarica sugli enti locali, perché come spiegava Gianni Trovati molto bene, se tu tagli alla fonte i trasferimenti sono certi, se tu chiedi risparmi dopo che hai dato i soldi, come risparmi dei ministeri, sono meno probabili. Dopo il traffico vorrei sapere invece come secondo te si potrà arrivare anche a una tenuta complessiva, perché le critiche a Tremonti sono state pesantissime ieri, oggi ci hanno messo un carico da 90 anche Formigoni, Alemanno e altri esponenti del centrodestra. Vorrei sapere se secondo te comunque prevarrà la ragione di Stato in questo momento, oppure varie limature. 349-238-6666 per i vostri sms. Avete ragione, ho sbagliato, avevo chiesto Chopin, mi hanno dato Bach solo perché si chiamava Sebastian. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Guido Gentili, come pensi che andrà a finire? C'è un Consiglio dei Ministri a 19, c'è un Tremonti da molti descritto come indebolito, quasi non più completamente autonomo nelle sue scelte, e c'è una Lega che continua a gettare acqua sul fuoco, l'ha detto lo stesso, appunto, tu lo ricordavi, Bossi, dicendo attenzione, aspettiamo, nessuno oserà toccare le pensioni, la manovra non cancella il federalismo fiscale, gli enti locali non devono avere il terrore dei tagli. Sì, mi sembra, innanzitutto è interessante notare che un governatore di una regione importante, cioè parlo di Zaia e del Veneto, del leghista Zaia, ha detto che lui per esempio non proporrà dei tagli che tocchino la scuola, la sanità, l'assistenza, quindi bisogna anche effettivamente considerare che ci sono delle situazioni diverse dal punto di vista, certo, della mappa in Italia, quindi ci sono anche delle regioni più virtuose rispetto ad altre che, diciamo, hanno bilanci migliori e non da oggi, e quindi, diciamo, possono secondo me reggere di più il colpo, mm-hmm, diciamo, di altre che invece sono, diciamo, pesantemente indebitate da tanti anni e sono anche tra l'altro protagoniste spesso di sprechi veramente davvero. Il 70% del buco sulla sanità lo fanno tre regioni, per cui, insomma, ecco, appunto, quindi dico, dobbiamo anche considerare nessun voglia di scusare le regioni in toto. È obiettivamente vero che è un'altra manovra sulle regioni e sui redditi dichiarati. Perché il colpo, come dicevo, il colpo è sicuramente un colpo duro. Come andrà a finire il ministro Tremonti indebolito? Sì, questo, diciamo, ieri ha segnato da questo punto di vista una giornata negativa, diciamo, a mio avviso, per quanto riguarda il ministro dell'economia. Però bisogna anche ricordare che diciamo, non viene abbastanza diciamo, da tempi recenti, ma potremmo dire che viene un po' da lontano questo indebolimento, perché con tutto diciamo, quello che c'è stata l'inchiesta giudiziaria sul suo collaboratore più stretto, il deputato Marco Milanese, che diciamo, ha coinvolto anche la figura del Ministro dell'Economia, e da lì sono cominciati diciamo, dei guai anche dal punto di vista della credibilità esterna e estera, insomma ci sono stati dei contraccolpi notevoli. In più diciamo sulla scena c'è un protagonista, questo diciamo no, anche questo non da oggi, cioè il governatore della Banca d'Italia Draghi, sì, che è presidente designato della BCE, prenderà il timone della BCE della Banca Centrale Europea a novembre, e diciamo questo è uno diciamo dei grandi protagonisti di questa manovra, e soprattutto nelle ultime due settimane si sono fatti molto forti i contatti col il commissario Draghi. Sì, appunto il commissario Draghi, o anche se non vogliamo il commissario, comunque diciamo è una figura che la Banca d'Italia è tornata ad essere diciamo, certo, molto centrale in quelli che sono i suggerimenti sulla manovra di politica economica. E questo va tradotto a indebolire ulteriormente il ruolo del Ministro dell'Economia, inutile nascondersi, certo, detto, perché prima era il dominus unico di questo. Grazie e buon fine settimana anche a te, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Staremo a vedere poi l'incontro governo, il Consiglio dei Ministri, scusatemi, alle 19. La borsa adesso, l'ultima campanella della settimana. Più 4% anche oggi per Piazza Affari, più 9,80 Mediobanca, ma è stata la conferma questa mattina arrivata dalla Consob che erano vietate le vendite allo scoperto oggi, quindi chi compra titoli per rivendere a terzi senza averli in mano fisicamente e poi comprarli effettivamente guadagnando sulla differenza, sono vendite che amplificano i cali, bloccate in Francia ma anche in Italia, e anche Parigi guadagna il 4%. Oggi Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ti faccio fare un commento complessivo, poi io leggo i vari titoli. Sì, come dicevi già tu, sostanzialmente il blocco alle vendite allo scoperto in Italia, Francia, Spagna e Belgio ha sortito un po' l'effetto sperato, sia quello di tranquillizzare, di calmare i mercati, che oggi, come già in parte era successo ieri sulle indiscrezioni che queste vendite allo scoperto potessero essere bloccate, hanno chiuso in forte rialzo con tutti i listini che hanno guadagnato oltre 3 punti percentuali, almeno in Europa. Diciamo che si tratta comunque, secondo quello che riferiscono gli operatori, di soluzioni di breve durata che non sono in grado di modificare i trend ribassisti se questi dovessero essere confermati. Sì, tra l'altro ho visto sedute possono funzionare. Beh, intanto abbiamo recuperato il tonfo di mercoledì, però ho visto poco fa una dichiarazione del presidente della Federal Reserve di New York, carica che fu di quello che attualmente è il ministro dell'economia americano Timothy Geithner, e lui si chiama William Dudley, e ha detto: vista la debolezza dei recenti dati economici americani, sono aumentate le possibilità di una ricaduta in recessione, il double dip. Non mando il gufo perché oggi abbiamo già dato con il gallo, non c'ho voglia, però insomma l'allarme resta tutto, Guido. L'allarme resta tutto, anche la crescita zero registrata oggi in Francia sta lì a dimostrare che la situazione dell'economia non è solidissima. I vari titoli, dicevamo bene i bancari oggi, Mediobanca più 9,80, Banca Popolare più 8,70, Fondiere Assai più 8,60, Mediolanum più 8,20, Popolare di Milano più 7,40, Azimut più 6,60, Generali più 6,30, Media 7 più 6,1 e poi Fiat più 5,60, come Unicredit e il Monte dei Paschi, di Asorin più 5,36 come Ubibanca, Impregilo più 5,20, Fiat Industrial più 5%, chiudiamo con Exor più 4,70, Prismian più 4,40, Atlantia più 4%, Saipem ed Eni più 4% anch'esso, Enel più 3,60, Autogrill più 3,5, Ansaldo più 3,40, A2A più 3,30, Intesa San Paolo più 3,20, Parmalat più 3,1%. Due titoli in sostanza, Fiat Industrial da un lato e Pirelli. Sì, per quello quello che riguarda Fiat Industrial, oggi ci sono state delle stime diffuse dal Ministero dell'Agricoltura americano che ha rivisto le previsioni sulla produzione, aspettandosi appunto una produzione di derrate alimentari in calo negli Stati Uniti. Questo vuol dire prezzi più alti, e prezzi più alti per le derrate alimentari vogliono anche dire più possibilità per chi come Fiat Industrial produce macchinari agricoli. Questo è stata una notizia che oggi sul mercato è stata accolta positivamente. Per quello che riguarda Pirelli aveva perso molto nelle giornate di forte calo, in questi giorni gli analisti hanno rifatto alcuni calcoli su Pirelli e hanno sostanzialmente promosso il titolo. In particolare oggi si guarda alle prospettive positive che potrebbero arrivare per Pirelli della Russia, e il titolo è stato in parte sostenuto anche da questi studi. Poi su Terna c'è un po' di realizzi, perché c'è anche un report, ma noi il report non li citiamo e quindi non vi dico che report c'è e di chi. E invece tra i migliori e peggiori in assoluto, Crespi peggiore -6,20, RCF Group -10,30. Tra i migliori in assoluto, anzi il migliore in assoluto è Cogeme 7 +24,9, Zucchi +20, Premafin Finanziaria, quindi Fondiera Sai +15, Unipol +13%, Eurotech +12,60%. Grazie a Guido Morino, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi del Sole 24 Ore. Grazie. Un paio di risposte velocissime. Quali sono le regioni che sfondano il deficit? Sono Lazio, Campania e Sicilia, da sole fanno il 70% del deficit, c'è qualcosa va anche la Liguria. Perché non fa un commento sulle vendite allo scoperto? Allora, adesso le hanno bloccate, va bene. Dopodiché decidiamo, o le rendiamo illegali, però in tutto il mondo, non è che puoi renderle illegali solo a Piazza Affari, o se no prima o poi andranno riammesse le vendite allo scoperto. Chiudiamo in bellezza. È vero che il gufo non l'ho mandato, però vorrei chiudere con la sigla con cui abbiamo aperto. Ne auguravi un buon fine settimana, un buon Ferragosto. Focus Economia non ci sarà il 15 di agosto, la borsa di Milano come la maggior parte delle borse europee è chiuse. Chiudiamo in bellezza, tanto poi c'è un ponte lungo per Ferragosto. Allora, il debito record oggi segnalato dalla Banca d'Italia 1901 miliardi, ma la cosa più importante a nostro avviso per le future generazioni, che ogni neonato, anche quello che nascerà fra un minuto, come nasce in questo paese, si becca sulla sua groppina 31.700 euro di debito. Canzone, buona serata a Sebastiano Berisoni e buon Ferragosto. Suicidarsi col tappaturaccio, lì soffocarsi con tanti batuffoli, che vedere sto schifo da grande. Radio 24, la passione si sente.